C'era una volta una capra che era mamma di 7 capretti, uno più bello dell'altro, e li amava tutti come solo una madre può amare i suoi piccoli. La capra e i suoi figlioli abitavano in una casetta vicino al bosco, in una radura circondata da alberi ombrosi. Un giorno mamma capra si ritrovò senza provviste, così fu costretta a uscire, lasciando i capretti da soli in casa. «Mi raccomando, piccoli miei, io devo andare a fare la spesa al di là del bosco. Chiudete bene la porta e non aprite a nessuno. State attenti al lupo. Se per caso riesce a entrare, vi mangia tutti in un solo boccone. Siate prudenti, perché il lupo è molto furbo e farà di tutto per acchiapparvi. Il gaglioffo ama travestirsi, ma lo riconoscerete perché ha la voce grossa e rauca e le zampe di pelo nero». «Mamma, stai tranquilla», le disse il capretto più grande. «Staremo molto attenti e non faremo entrare nessuno». Rassicurata dalle promesse dei suoi piccoli, dopo essersi fatta giurare solennemente di non disubbidire, mamma capra fece loro le ultime raccomandazioni. «Sarò di ritorno prestissimo. Mi raccomando, se avete fame, prendete qualcosa dalla dispensa», disse dalla soglia di casa. Poi si incamminò verso il bosco. Ma quel briccone del lupo era in agguato, nascosto dietro un albero, e aveva ascoltato le ultime parole della capra. «Bene, bene, la vecchia se ne va e quei mocciosi sono soli in casa. È arrivata l'ora di farmi un pranzo come si deve, senza nemmeno faticare troppo». Detto fatto, in 4 salti il lupo fu davanti alla casa dei capretti e bussò alla porta. Toc toc toc. I capretti sentirono 3 bei colpi secchi. «Chi è là?» belarono in coro, tremanti di paura. «Sono la mamma, piccini», disse il lupo, dimenticando di avere un vocione simile a una gran cassa. «Aprite, ho dimenticato la lista della spesa». «Non è vero che sei la mamma, tu sei il lupo», disse il più grande. «Ti abbiamo riconosciuto, sai, brutto che non sei altro. La nostra mamma ha la voce dolce, mica come la tua». «Che rabbia», pensò il lupo. «Sono proprio uno sciocco. Non ho pensato di imitare quella vocetta stupida da capra». Il lupo cattivo se ne andò di corsa, attraversò il bosco prendendo una scorciatoia e in 4 e 4/8 sbucò nel villaggio vicino. Entrò nella bottega del droghiere e comprò un grosso pezzo di zucchero e delle pastiglie di liquirizia. Mangiò tutto in un solo boccone, facendo un grande sforzo. Come sapete, i lupi sono voraci, ma non di cose dolci. Amano i pasticci di carne, semmai. Insomma, il lupo inghiottì zucchero e liquirizia per addolcire la voce. Poi provò a cantare una canzoncina che cominciava così. «Il lupo mangia i capretti, il lupo mangia i capretti, il lupo mangia i capretti, perché è un gran mascalzon». Ne uscì una vocetta belante che sembrava quasi quella di un agnello. «Adesso sì che non mi riconosceranno», si disse il lupo. Riattraversò di corsa il bosco e bussò di nuovo alla casa dei capretti. «Chi è là fuori?» chiesero i capretti in coro. «Sono io, la vostra mamma. Aprite, piccini, ho una bella sorpresa per voi», belò il lupo, con una voce così dolce che sembrava zucchero filato. «Sì, mamma, subito!» urlarono i capretti e già stavano per sollevare il chiavistello quando il più piccolo, alzando lo sguardo, vide una zampaccia nera e pelosa premere contro il vetro della finestra. «È il lupo, fratelli, non aprite! È il lupo!» disse il capretto con voce spaventata. «Ci vuole ingannare, guardate!» I capretti puntarono lo sguardo sulla finestra e tutti videro la zampaccia pelosa. «Brutto imbroglione che non sei altro!» gridò allora il maggiore. «La tua zampa pelosa ti ha tradito! Tu non sei la nostra mamma! La mamma ha le zampette candide e morbide! Vattene via, lupo cattivo!» Il lupo dovette fare buon viso a cattivo gioco e andarsene con la coda tra le zampe. «Anche stavolta i marmocchi l'hanno scampata», borbottò. «Ma non per molto, ho già un'idea». Il lupo corse di nuovo al villaggio, andò difilato dal fornaio e gli disse: «Mi sono fatto male correndo, ho preso una storta alla zampa. Per favore, fornaio, spalmami un po' della tua pasta di pane intorno alla zampa, così guarisce». Il fornaio obbedì senza porsi troppe domande, anche perché con i lupi non c'è mai da stare tranquilli. Meglio non farli arrabbiare. Il lupo uscì dalla bottega tutto contento, con la zampa avvolta nella pasta di pane. Adesso mi manca solo una bella imbiancata. Andrò dal mugnaio, si disse. E senza perdere tempo, corse al mulino in riva al fiume. Buongiorno, signor mugnaio, disse il lupo entrando nel mulino. Tese la zampa e ordinò. Fammi un favore, imbiancami la zampa con un po' di farina. Il mugnaio pensò. Qui c'è sotto qualcosa. Perché mai questo briccone vuole che gli infarini la zampa? Starà progettando una birbanteria. E si rifiutò di dare la farina al lupo. Allora il lupo andò su tutte le furie. Stammi bene a sentire, tuonò, dimenticando la voce zuccherina e facendo la voce grossa. O fai come ti dico oppure sarò io a infarinare te. Ti impano ben bene e ti mangio come una cotoletta. A quella sfuriata il mugnaio si prese un tale spavento che senza più dire né a né ba si affrettò a infarinare la zampa. E il lupo, soddisfatto, ritornò al galoppo dai capretti. Questa volta quegli sciocchi cadranno per forza nel tranello. La zampa è bianca e la voce mi è tornata morbida, pensò. Arrivato davanti alla porta di casa, bussò. Chi è? Belarono i capretti in coro. Sono la mamma, piccini. Sono tornata e ho tante cose buone nel cesto. Su, da bravi, aprite. Belò il lupo, facendo la voce dolce come il miele. Se sei la mamma, facci vedere la zampa alla finestra, disse il più grande. Subito il furbo lupo appoggiò al vetro la zampa impastata e infarinata. Oh mamma, sei tu! Esultarono i capretti. Si affrettarono ad aprire la porta e in pochi secondi successe il parapiglia. Il lupo balzò dentro la casa digrignando i denti e sfoderando gli artigli appuntiti. Adesso vi mangio in un boccone! Gridò. Aiuto, aiuto, si salvi chi può! Urlarono i capretti terrorizzati, tentando di nascondersi. Il primo cercò rifugio sotto il tavolo, il secondo sotto un letto. Il terzo si tuffò nella stufa e chiuse lo sportello. Il quarto si nascose in cucina dietro la madia. Il quinto si chiuse in un armadio. Il sesto si rincattucciò sotto l'acquaio e il settimo si nascose nella cassa dell'orologio a pendolo. Ma il lupo li stanò tutti, uno per volta, e uno per volta se li mangiò. Li inghiottì tutti interi e vestiti, senza nemmeno masticarli un pochino. Si salvò solo il settimo capretto, nascosto nella pendola, ma solo perché, dopo aver inghiottito sei capretti interi uno dopo l'altro, il lupo cominciò a sentirsi appesantito. Gli si appannò la vista e gli venne tanto sonno. Insomma, non aveva nessuna voglia di mettersi alla ricerca dell'ultimo capretto. Che scorpacciata, disse con un sonoro sbadiglio. Con quello che ho mangiato mi ci vuole proprio una bella dormita. Uscì di casa e si sdraiò sul prato, all'ombra di un grande castagno. Non fece nemmeno in tempo a contare fino a tre, che già dormiva beato e russava come una gran cassa e due tromboni. Di lì a poco tornò mamma capra con il cesto pieno di provviste. Già dal sentiero vide che c'era qualcosa di strano. La porta di casa era aperta. La capra affrettò il passo, col cuore che le batteva forte, e quando entrò in casa per poco non svenne. Sedie e panche erano rovesciate. Il letto disfatto, pentole e pentolini sottosopra, l'armadio aperto. Lei che era così ordinata. Il primo pensiero fu: che cosa hanno combinato quei bricconi dei miei capretti? Mai che li possa lasciare soli un momento. Poi li chiamò. Piccini! Piccini! Dove siete? Venite che si fa merenda! Ma dei capretti nemmeno l'ombra. Mamma capra cominciò a sentirsi inquieta. Chiamò ancora e ancora. Nessuno rispose. Poi udì un belato sottile provenire dalla cassa del pendolo. Mamma capra drizzò le orecchie e si avvicinò all'orologio. Ora il belato era più forte, si sentiva piangere. Col cuore in gola mamma capra aprì la cassa del pendolo e hop! Balzò fuori il settimo capretto, più spaventato che mai. Non appena vide la mamma, il piccino le saltò in braccio e l'abbracciò forte forte. Poi tra i singhiozzi riuscì a dire: i miei fratelli, il lupo, mangiati, cattivo lupo. Mamma capra non capiva più nulla. Coccolò il suo capretto, lo tenne stretto tra le braccia, lo cullò e con pazienza si fece raccontare quanto era successo. Così seppe dell'inganno del lupo, di come il mascalzone era riuscito a entrare in casa e a farsi una scorpacciata dei suoi figlioli. Mamma capra era saggia e riuscì a non perdere il suo sangue freddo. Di sicuro il furfante non deve essere andato lontano con la scorpacciata che si è fatto. Magari, ingordo com'è, se li ha inghiottiti interi. Forse c'è ancora qualche speranza, si disse. Tenendo per mano il piccino, mamma capra uscì di casa. Non dovette fare molta strada. Il bestione era lì, sotto il castagno, che si agitava nel sonno e russava forte. Mamma capra si avvicinò cauta, ma non c'era nulla da temere. Il lupo dormiva come un sasso e non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. La capra si accorse di aver visto giusto. La pancia del lupo sobbalzava come una palla, come se dentro ci fossero centinaia di molle impazzite. «Meno male, proprio come pensavo, i miei piccini sono ancora vivi. Devo agire in fretta», si disse. Alla capra venne un'idea. «Capretto mio», disse al piccolo, «corri a casa e cerca il mio cesto da lavoro. Lo trovi in camera mia, sul comodino. Aprilo e prendi l'ago più grosso che vedi, il gomitolo di spago e le forbici. Fai in fretta e torna qui subito». Il capretto non se lo fece ripetere due volte. Corse a casa più veloce che poté, trovò il cesto da lavoro della mamma, prese l'ago, lo spago e le forbici e in 4 e 4/8 fu di ritorno. «Ecco, mamma, ho trovato tutto, tieni», disse consegnando ago, forbici e spago. «Adesso guarda bene e impara», disse la capra soddisfatta e si mise all'opera. Prese le grosse forbici e zac! Con un taglio rapido e deciso aprì la pancia del lupo, che ignaro continuava a dormire come un macigno. Dalla pancia aperta saltarono fuori i 6 capretti, vispi e allegri come non mai. «Mamma, mamma, mamma!» gridarono i 6 marmocchi saltellandole intorno. «Oh, bambini, mi mandate a zampe all'aria!» disse commossa mamma capra, ricambiando i loro abbracci. «Su, su, non perdiamo altro tempo. Non vorrei che il lupo si svegliasse con tutto questo baccano. Il mio piano non è ancora finito. Adesso dovete...» disse sottovoce ai capretti quello che dovevano fare. Svelti, i capretti andarono al torrente vicino. Ognuno di loro afferrò una grossa pietra, la sollevò con fatica e, incespicando e traballando sotto il peso, la portò alla mamma. La capra era pronta. Prese tutte le pietre e con queste riempì la pancia del lupo. Poi, con l'ago e lo spago robusto, gli ricucì la dura pellaccia. «Adesso, piccini, andiamo a nasconderci dietro quel cespuglio. Sono convinta che tra poco ne vedremo delle belle. Shh, fate silenzio e seguitemi». Piano, senza far rumore, i 7 capretti e la loro mamma si nascosero dietro il cespuglio. Non dovettero aspettare a lungo. Di lì a poco, con un grosso sbadiglio, il lupo si risvegliò. «Ah, che dormita ho fatto! Indigesti però i piccoletti! Mi sento un peso sullo stomaco! Forse dovevo masticarli un pochino! E vabbè, beh, vorrà dire che mi farò una bella bevuta! Un po' d'acqua fresca mi risveglierà e mi aiuterà a digerire!» Il lupo si alzò a fatica e si incamminò verso la fontana. Ma ad ogni passo gli costava uno sforzo indicibile e dalla pancia proveniva il rumore delle pietre che sbattevano una contro l'altra. «Bomba in bomba la mia povera pancia, questo gran peso mi sfianca e sbilancia. Pensavo fossero capretti buoni, ma qui si tratta di grossi pietroni». Il lupo finalmente si trascinò alla fontana e si chinò per bere, ma l'enorme peso delle pietre lo fece precipitare dentro la vasca. «Aiuto! Affogo!» Povero lupo, annaspava, gorgogliava, si dibatteva come un forsennato, ma più cercava di salire a galla, più le pietre lo trascinavano giù, sempre più giù, inesorabilmente verso il fondo. E dopo l'ultimo il lupo annegò. «Evviva! Evviva! Il lupo è morto! Il lupo è morto!» esultarono i 7 capretti, uscendo dal cespuglio. Si precipitarono alla fontana e improvvisarono un giro tondo, gridando di gioia. «Che bello! Ci siamo liberati del lupaccio e non abbiamo più niente da temere! Evviva! Evviva!» cantarono in coro. Poi corsero in casa a prendere il cesto delle provviste e fecero una bella merenda sul prato, felici e contenti, insieme alla loro mamma.